want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buonasera a tutti voi in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, da JJ Telesforo. Buonasera anche da Francesco Tromba, saluti il tuo pubblico. Buonasera a tutti. Ecco, grazie. Siamo presenti qui su Radio 24, ma collegati dall'Auditorium Parco della Musica, esattamente dal bookstore dell'Auditorium Parco della Musica, bellissimo negozio di dischi e di libri dedicati alla musica e non solo alla musica, posto che a noi piace frequentare proprio perché si respira un'atmosfera diversa, e saremo qui anche per la puntata di domani, quindi tu hai portato la tua brandina perché dormiamo qui, però possiamo andare a vedere i concerti. Sì, dormiamo nei camerini. Siamo accreditati, però possiamo dormire anche in macchina, siamo dei vecchi saccopelisti. Va bene, allora. Siamo pronti, allora io vorrei dare il via all'appuntamento di oggi presentandovi due amici. Prima di tutto grandissimi appassionati di musica e poi giornalisti che lavorano fra le altre testate o credo altre cose che faranno nella vita, lavorano per il Fatto Quotidiano, e proprio dal Fatto Quotidiano viene fuori un articolo che questi signori hanno scritto alcuni mesi fa che mi colpì molto e che oggi vorrei argomentare con loro. Quindi vado a introdurvi Fabrizio Galassi e Pasquale Rinaldis, che scrissero questo articolo tempo fa. Vi leggo soltanto come inizio l'articolo: ai tempi di Spotify, YouTube, Deezer, dei social network, del file sharing e dello scaricamento selvaggio, ha senso stare ancora a discutere delle programmazioni musicali delle radio, un tempo nate libere e oggi considerate solo come radio commerciali? Quindi vado a chiedere a Fabrizio Galassi e a Pasquale Rinaldis, ha senso discuterne? Beh, ha senso discuterne se si tiene conto dei dati che sono stati pubblicati da un rapporto della SIAE, in cui è emerso, noi abbiamo fatto calcoli insieme, anche se sono un po' dei calcoli molto generici perché non vengono fornite indicazioni precise in merito, che ci sarebbe un potenziale guadagno da parte del settore discografico di 43 milioni di euro, che potrebbero far molto bene all'indotto, a tutta l'organizzazione musicale in Italia, però non vengono sfruttati. Allora, per questo l'associazione Gli Amici della Musica, appoggiati dalla AudioCop, hanno proposto una petizione a cui chiedono di trasmettere le cosiddette quote azzurre, il 40% di musica italiana alla radio e alla televisione italiana. Ecco, così come succede in Francia da un bel po' di tempo, cioè per legge la radiofonia deve suonare il 50% di musica nazionale, quindi musica francese, produzioni francesi, quindi non soltanto in lingua francese, ma produzioni francesi, e poi il restante con le produzioni internazionali. Invece, Fabrizio, da noi che cosa succede? Ma da noi succede che si vendono il 70% o anche il 90%, a seconda dei dati che si guardano, diciamo il 90% nell'ultima indagine prodotta da Rock Hall, il 90% di musica italiana è venduta in classifica, ma viene trasmessa solamente un 30% dalla radio. Questo è un po' strano, no? Ecco, quindi che cosa significa? Che ci sono acquirenti ancora di discografia prodotti in Italia, però le radio la snobbano. Diciamo la snobbano, insomma, però ne trasmettono molto poco. Ora, prima di analizzare il perché ne trasmettono molto poco, noi abbiamo cercato di capire le percentuali quanto valgono, perché è bello parlare del 90, del 30, però esattamente in euro, no? Quanto si trasforma, quanto fa bene? Allora, lo possiamo dire dopo, cerchiamo certo. di fare un velocissimo calcolo per capire come potrebbero andare le cose nel nostro paese anche da un punto di vista economico, parlando di musica prodotta in Italia. E un disco è stato prodotto in Italia dal nostro amico Nicola Conte, che lavora così in studio di registrazione per realizzare questo album intitolato Canzoni, con protagonista la vocalità di Chiara Civello. Il brano è tratto dal repertorio dei Subsonica e si intitola Incantevole. Chiara Civello apre il soundcheck di Radio 24. Notebook dell'Auditorium Parco della Musica, in contatto con il soundcheck di Radio 24, puntata con ospiti Fabrizio Galassi e Pasquale Rinaldis, appassionati di musica, giornalisti di musica, che hanno scritto sul Fatto Quotidiano un articolo molto interessante che riguarda le percentuali di musica italiana presenti nella radiofonia, nella nostra radiofonia, e soprattutto tutta una serie di numeri che riguardano l'indotto, ovvero il valore economico da dare poi a queste percentuali, per capire quanto il Made in Italy, questo è quello che scrivono loro, il Made in Italy musicale potrebbe guadagnare in più dall'aumento delle quote azzurre in radio, quelle proposte dagli amici della musica. Allora, che quanto potremmo guadagnare? Tantissimo, tantissimo, perché se noi imponessimo, diciamo, una quota del 40% in radio e in TV di musica italiana o prodotta in Italia, che forse è ancora meglio, perché è più preciso, no? Esatto, anche perché attireremmo investitori esteri che vengono da noi a pagare anche un po' le tasse, un po' per noi, no? Diciamo. E in questa maniera avremmo un aumento dell'82% dell'introito derivante solamente dal diritto d'autore, senza conteggiare la vendita, per un totale di 43 milioni di euro l'anno. Quindi, 43 milioni sono una bella cifra, invece quanto portiamo a casa nelle condizioni odierne? Fai il calcolo, togli l'82%, quindi sarebbe solamente la musica porta di diritto d'autore 2 milioni e rotti all'anno, e ne potrebbe portare 5 solo, la radio. La televisione, che paga più in termini di diritti SIAE, chiaramente ne potrebbe portare molto di più, quindi avremmo la possibilità di guadagnare l'82% in più rispetto alla normale gestione. Ecco, Pasquale Rinaldis, tu che sei molto attivo anche con le tue rubriche, il tuo blog, per promuovere e ricercare il talento fra gli indipendenti, non pensi che aumentando quindi le quote delle produzioni italiane nella programmazione radiofonica potrebbe aiutare anche gli artisti non legati alle multinazionali? Sicuramente, infatti la richiesta da parte dell'Associazione degli Amici della Musica, appunto in questo 40% si prevede che il 20% venga destinato agli artisti emergenti, che sono totalmente sconosciuti in ambito nazionale e per non parlare a livello internazionale, non hanno proprio sbocchi. E chi non si sente rappresentato dal suono dei network radiofonici, così come da quelle che una volta erano le radio libere, si rifugia nella proposta massiccia che arriva da internet, e quindi le cose se le va a cercare. E anche noi ci siamo andati a cercare un po' di musica, come questa band che si chiama Acustronica, che ha come leader il batterista Mimmo Campanale, con la bravissima Serena Brancale. Il brano si intitola Bye Bye, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. E ci stiamo intrattenendo piacevolmente con Fabrizio Galassi e Pasquale Rinaldis, parlando di musica, italiana presente nei network radiofonici del nostro paese e parlando delle problematiche che vivono gli artisti indipendenti, gli artisti emergenti, proprio nel poter far ascoltare la loro opera e le loro produzioni discografiche. Che dicevi, Francesco Tromba? Sì, io volevo fare una domanda in realtà a tutti e tre. Io volevo chiedere, secondo voi c'è solo una questione appunto delle radio che non sono attente alle produzioni italiane, o è anche vero che alcune molte produzioni italiane non sono attente alle radio, nel senso che in molte produzioni non esistono diciamo dei brani realmente passabili in radio? Ecco, questo è un bel quesito, Fabrizio. Ma secondo me potrebbe essere vero l'opposto, sono degli album che forse strizzano troppo l'occhio alle radio, talmente tanto che non hanno una funzione sociale di accrescimento musicale, no? Tu senti una produzione italiana che vuole andare in radio in maniera disperata e non è abbastanza ovvio. Anche l'arrangiamento, la voce dove è messa, forse dovremmo puntare più a far qualcosa che una produzione sempre con il concetto di radio, quindi di semplicità di fruizione, però dove l'arrangiamento e la composizione sia a livelli e standard internazionali. Se tu guardi le hit anche dell'ultima estate, non sono brani canonici, sono sempre dal punto di vista di arrangiamento un po' diversi da quello che si ascolta. Allora puntiamo sul diverso, fatto in maniera professionale, eh? Siccome mancano soldi, molto probabilmente mancano anche i professionisti che aiutano le band, soprattutto nella pre-produzione, cioè prima di andare in studio, come si realizza un brano. Pasquale? Sì, condivido in pieno quello che ha detto Fabrizio, e purtroppo oggi sono anche i click, le visualizzazioni, e quindi che si parte dal basso a scegliere quelli che sono poi i gusti che vengono e i generi che poi vengono trasmessi dalle radio, perché naturalmente gli editori e i direttori delle radio pensano come imprenditori, quindi mandano il brano di successo per ottenere pubblicità, quindi per avere un ritorno economico, e fino a quando si ragiona in questo modo, naturalmente la musica ne risente in negativo, è il mio parere. Invece una ragazza che vi voglio far ascoltare, che non segue degli stereotipi ma fa musica naturalmente, è una bravissima musicista, pianista, cantante, si chiama Carolina Bubico, è stata già ospite del Soundcheck e stiamo facendo conoscere il suo talento attraverso questa sua composizione intitolata Controvento. Questo è il suono, il sound, la voce e tutta la passione della giovane Carolina Bubico, che ci ha raccontato tempo fa che comunque prima o poi le toccherà andare a Sanremo. Ha tentato l'esperienza sanremese nella passata stagione, alla fine non l'hanno selezionata, ma sicuramente per un artista italiano passare a Sanremo piuttosto che a partecipare a X Factor o a un talent show di questi nazional popolari diventa un momento importante per promuovere la propria arte e il proprio talento. Stessa cosa forse potrebbero farla le radio. Una volta c'era in radio sui programmi della Rai un programma bellissimo chiamato Demo, che pubblicizzava la musica originale degli indipendenti e dei giovani artisti, poi anche questo programma è stato soppresso. Quindi i giovani artisti che cosa possono fare, Fabrizio? Ma il giovane artista, diciamo, la prima cosa che gli consiglio di fare è di fare immediatamente un'esperienza all'estero. Non è che vogliono. Non perdete tempo, esatto. Prendete lo zainetto. chitarra e canzoni e via. Sì, è l'unica possibilità, nel senso, ma per andare a imparare, non per emigrare definitivamente, no? Quindi emigrare nei paesi dove la cultura musicale ha un valore artistico e non di mero intrattenimento come è da noi, quindi diciamo anche Germania, non per forza Inghilterra, Stati Uniti, Francia, questi luoghi culturalmente un po' più alti, imparare, capire il mercato, riuscire a stabilire un rapporto anche professionale con tutta la filiera del mondo musicale. E poi la speranza per noi che invecchieremo invece in Italia è quello che da anziani noi potremo fruire di una musica che deriva dall'esperienza straniera, quindi che questi ragazzi poi ritornino in Italia e creino una struttura professionale sulla quale poi i giovani artisti si potranno posare. L'ultima cosa, se tante volte riuscissimo a fare queste quote azzurre, che spero sempre in un'autoregolamentazione più che imporre, no? La quota, parte di questi introiti dovrebbero andare anche in un fondo per l'educazione musicale, che si è un po' persa. Da bambini alle scuole medie avevamo, no? Un'ora di educazione musicale, e iniziare un po' dalle elementari per far capire ai bambini cos'è la musica, il valore della musica, nella speranza che poi quando riparta l'economia italiana loro comprino musica e non solamente cellulari, lettori e abbigliamento. E parlando di educazione musicale, allora vi faccio ascoltare la voce di Francesca Sortino, vocalist di jazz accreditata nel nostro paese, oggi insegna musica nel prestigioso conservatorio di Salerno insieme ai colleghi salernitani Fratelli De Ida, Daniele Scannapieco e tutti gli altri. Nuovo album per lei, autoprodotto, distribuito da A-Beat. Il brano che vi faccio ascoltare si intitola Inside Art. This motionless art will fade in all the colors on this canvas. Concept, innocent life, coming out to paint my morning. 'Cause in the morning light I will find the deepest corner of my past in the mirror of my life, in the mirror of my life. Soundcheck. Il suono della musica. Prestissimo tornerà al soundcheck di Radio 24 la bravissima Greta Pannettieri, con tanti anni di fatica e di voce cantata lì a New York City. È tornata in Italia, ultimamente ha registrato anche un album dedicato alle peripezie vocali di Mina, ma ne parleremo con lei durante i prossimi weekend. Qui Greta Pannettieri con i suoi Greta's Bakery in una composizione originale intitolata Tell Me Why. Siamo ai saluti, io vorrei ringraziare Fabrizio Galassi e Pasquale Rinaldis del Fatto Quotidiano per aver partecipato al soundcheck trattando un argomento importante: la musica italiana presente nella radiofonia nazionale, magari con una sana percentuale che possa così aiutare gli autori, i compositori e tutto l'indotto che riguarda la musica del nostro paese. La mia provocazione è che quella, magari oltre di avere una percentuale maggiore di produzioni italiane, ci possa essere anche un suono diverso nella radiofonia italiana, che per quanto possa spingere sulle produzioni nazionali, spinge comunque sempre su un versante sonoro che è quello, è lo stereotipo tipico del pop rock che imperversa un po' dappertutto, quando invece c'è tanta buona musica prodotta in Italia con eccellenti musicisti che rappresentano la musica classica, il jazz, world music, sperimentazione elettronica e via dicendo. Che dite? Effettivamente è così, molto spesso si insegue generi provenienti da oltreoceano oppure dall'Inghilterra, e invece dovremmo concentrarci più verso quello per cui siamo portati, il cantautorato. e quindi cercare di essere più se stessi, credere nei propri mezzi, e io spero anche che sfruttando la tecnologia a disposizione riuscire anche a fare qualcosa di nuovo, qualcosa che non si è mai sentito, nonostante le note siano sempre quelle. Esatto. Fabrizio, per chiudere? Ma io, diciamo, mi ricordo che quando ero piccino mi ha formato un programma televisivo che non so se che tu conosci, si chiamava Doc. Sì, me lo ricordo pure io. E mi ha fatto scoprire i generi musicali. Proprio. Quindi quello che manca adesso è questo, proprio un palcoscenico anche televisivo che spieghi in maniera semplice i vari generi, la differenza tra i vari generi. La radio non la fa, e più la televisione ha l'opportunità delle immagini, quindi unisce l'immagine al suono per un luogo spazio temporale unico, il valore in più della televisione, quindi è un po' di educazione anche messa in quel modo, no? Leggero e divertente come anni fa. Grazie, la differenza è che una volta, quindi sto parlando quando facevamo Doc, sono passati più di 25 anni a guidare i canali televisivi, a guidare la TV e le radio, c'erano degli appassionati di musica, oggi invece ci sono degli imprenditori che devono curare il marketing e fare i numeri. Francesco, vuoi chiudere in bellezza con una delle tue calabrese naturalmente? No, volevo dire che ad esempio comunque c'è richiesta e se si fanno dei programmi come ad esempio Sostiene Bollani, che è andato benissimo, comunque sono dei programmi che insegnano in maniera divertente come ascoltare e come fruire della musica. Allora, grazie ancora una volta a Fabrizio Galassi, a Pasquale Rinaldis, vi lascio con Arnaldo Santoro, voce soul del nostro paese, sta arrivando anche con un album da solista, però per ora ci accontentiamo ancora della bellissima Last Goodbye. Grazie a voi ragazzi per essere stati al Soundcheck, fra pochissimo su questi schermi la dottoressa Erika Leonardi per presentarci un'azienda in jazz. Sei pronto? Prontissimo. Bene. There's a place I wanna go with you. Now's the time to say the last goodbye. Can you see the past that's left behind? Could be love for you and me this time. There's a place where love is all you need. Now's the time to free your mind and be. Can you feel the changes all around? Could be love for you, my soul, my sound. Can you hear me? Wow, mi. Soundcheck, il suono della musica. Eccoci qui, pronti per la seconda parte del soundcheck di oggi, sempre dall'Auditorium Parco della Musica, sempre dal Notebook Store, ovvero il negozio di dischi e libri. E fra i libri interessanti che abbiamo scovato c'è una pubblicazione praticamente che è stata presentata ormai più di una decina di anni fa, però sono state fatte delle ristampe con delle nuove edizioni perché il libro lo abbiamo trovato molto interessante anche noi per tanti motivi. È un libro musicale per certi versi e quasi un nuovo concept per affrontare il lavoro in un'azienda. Quindi io vorrei, mio caro Francesco Tromba, che tu ci presentassi l'autrice del libro, che è venuta addirittura da Milano a trovarci perché è un'appassionata di jazz, un'appassionata di musica e segue anche le nostre vicende radiofoniche su Radio 24. Di chi stiamo parlando? Di Erika Leonardi. No, di Erika Leonardi, stiamo parlando della dottoressa Erika Leonardi, no? Tu sei dottore in scienze della comunicazione? Sì. E quindi tu sei il dottor Tromba, invece senti come suona bene, dottoressa Erika Leonardi. Volevo essere un po' meno formale. Visto no, invece lo devi essere, credimi, è il caso proprio di esserlo. Vai, presentiamo okay. Erika Leonardi. Laureata in biologia, inizia subito dopo ad occuparsi di ricerca e docenza in ambito etologico, successivamente però si sposta sui temi del marketing, della gestione aziendale e anche dei servizi. Su questi temi scrive diversi libri, organizza anche molti corsi di formazione, anche corsi universitari. Nel CD diciamo allegato all'azienda in jazz il titolo del libro edito. Azienda in jazz, quindi lei si è laureata in biologia per fare tutt'altro dopo. Esatto. Quindi ha improvvisato anche lei. Sì. Ecco, allora per quello ci piace. Volevo dire anche che nel CD allegato all'ultima edizione si possono trovare anche il cartoon di Bruno Bozzetto e la musica della Hopeless Jazz Band. E allora presentiamo qui al Soundcheck Erika Leonardi con Azienda in Jazz, regole, improvvisazione, emozione e tecnica, come vivere il lavoro con ritmo. Cara Erika, sono molto felice di ospitarti al Soundcheck. Sono io felice di essere al Soundcheck perché mi sento un po' fuori posto, non essendo una musicista. Beh, ma sei biologa, quindi precisa, perché ci puoi fare, come dire, il pelo e contropelo attraverso il microscopio e capire esattamente quello che noi facciamo nella vita. Cosa facciamo nella vita? Noi dobbiamo vivere bene, dobbiamo essere vitali, non semplicemente vivere, ma essere vitali. E il jazz ce lo insegna, ce lo insegna a livello di vita lavorativa, ma anche a livello di vita personale. Abbiamo detto che questo libro tu l'hai scritto forse più di una decina di anni fa, però io lo trovo attualissimo. Beh, ti ringrazio, detto da te è un complimento che ha ancora più valore. È vero, è attualissimo. È una metafora che sto proponendo da circa 10 anni in ambiente lavorativo, ma anche in ambiente di pure entertainment, perché il jazz ci può insegnare a vivere bene le relazioni con gli altri, ingrediente critico oggi, ma molto fondamentale. Allora, prima di raccontare Azienda in Jazz, quindi qual è la tua visione per la gestione di un'azienda che mi auguro possa essere in attivo, soprattutto in questo periodo che è un po' complesso per il nostro paese ma anche a livello internazionale, io vorrei raccontare la tua storia, come spesso facciamo. Quindi tu sei biologa, ma come ti sei avvicinata al jazz? Come mai sei un'appassionata di jazz? Sono biologa, una biologa che si occupava di etologia, quindi studiavo il comportamento degli animali e delle persone. Poi i casi della vita sono tanti, si chiudono dei capitoli e se ne aprono degli altri. Mi sono avvicinata al mondo lavorativo e osservavo quanti piccoli problemi ci sono nel quotidiano fra le persone, problemi che non permettono alle persone di lavorare bene e di stare bene con se stessi. Ma mi piace anche il jazz, mi piace sentire la musica jazz, non sono un'esperta. Mi piace andare ai concerti, dopo un po' non riesco più a star ferma e sento che un'energia mi entra quando sento la musica. Allora, per una donna piena di swing come la dottoressa Erika Leonardi, io direi di andare subito alla musica. C'è un disco nuovissimo che abbiamo presentato più o meno una settimana fa, prodotto da questi signori brasiliani che hanno estrapolato dalle tracce originali le voci di grandi protagonisti della storia della musica, a partire da Marvin Gaye, Bill Withers, fino addirittura a Nina Simone. E l'album è bellissimo, assolutamente estivo, perfetto per questo periodo molto brasiliano, visto che ci sono i mondiali in televisione e che stanno ormai lo spettacolo è quello, vedere il calcio, no? Eh sì, certo. E quando ci sono le partite della nazionale italiana si fermano i concerti, si ferma il paese. Figurati in Brasile che cosa succede quando gioca la Seleção. Ma andiamo alla musica. Studio Rio il titolo di questa produzione, con Nina Simone. Il brano è I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Nina Simone al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Questo è un brano che abbiamo dedicato alla nostra dottoressa Erika Leonardi, autrice di Azienda in Jazz, le voci immortali di Louis Armstrong e Ella Fitzgerald in un classico di Irving Berlin intitolato Cheek to Cheek. Quanto sei legata a Louis Armstrong e Ella Fitzgerald? Ma dicevo che sentirli è una poesia che ti entra dentro ed è sempre quanto mai attuale. Non sei mai soddisfatto di averli sentiti una volta, li devi continuare a sentire. Ecco, in un'azienda, per esempio una giovane azienda italiana, visto che tu hai scritto questo libro Azienda in Jazz, proporre in sottofondo musica jazz, quindi Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, i classici, può aiutare alla produttività o anche alla creatività? È importante per un'azienda la creatività? Ma sono d'accordo con te, è importante la produttività, è importante la creatività, però secondo me è molto importante che una persona stia bene con se stessa. Se sta bene con se stessa può avere delle buone relazioni con gli altri, e il successo di un'azienda si basa proprio sulla capacità delle persone all'interno dell'azienda di avere delle buone relazioni. In altri termini, consentimi questa piccola indicazione di carattere manageriale, quello che percepisce il cliente è come le persone all'interno dell'azienda sanno stare insieme, e il jazz ci può insegnare, ci insegna che un buon gruppo è quello dove ogni persona può realizzare le sue competenze e le sue capacità. Ogni persona è brava, ma riesce a dare il meglio in quanto è all'interno del gruppo, quindi il gruppo valorizza le competenze del singolo. Sì, c'è sempre in un gruppo, in una jazz band, parlo per da musicista, c'è sempre un leader che decide l'organizzazione per gli arrangiamenti, decide le parti, decide chi deve essere il solista, però poi lo spirito democratico e quindi l'improvvisazione dei singoli musicisti fanno il resto. Francesco Tromba, molto interessato a Azienda in Jazz di Erika Leonardi, che cosa volevi chiedere alla tua collega dottoressa? In realtà volevo fare una domanda a entrambi, volevo chiedervi appunto dal punto di vista gestionale vero e proprio, quanto è importante avere dei dipendenti alla dottoressa Leonardi e dei musicisti a te, che siano realmente, diciamo, soddisfatti e convinti di quello che fanno o suonano. Rispondi prima tu? E vabbè, tocca a me, sono l'ospite, Gegè. Assolutamente sì. Dunque, è molto un'elevata responsabilità c'è chi dirige l'azienda. Chi dirige l'azienda deve guidare le persone verso certi risultati proponendo dei metodi di lavoro, lasciando spazio alla persona di interpretare il metodo che riceve. In questo modo si riesce a coniugare le regole con la flessibilità. Non è assolutamente facile, però è un obiettivo da perseguire. Ecco, traduci tutto quello che ha detto Erika in musica e viene fuori anche la mia risposta. Personalmente io me li vado proprio a scegliere i musicisti, non solo per motivi legati alla loro arte e al loro talento, ma anche per motivi caratteriali, no? Perché poi con i musicisti ci devi convivere, devi andare in giro, devi frequentare gli alberghi, i festival, e a volte preferisco avere a che fare con musicisti caratterialmente compatibili piuttosto che musicisti molto bravi ma assolutamente ingestibili. Anche perché poi, diciamo, magari durante il concerto potrebbe... diventano ingestibili anche sul palco, allora lì possono sorgere complicazioni. Vi presento un clarinettista della nuova scena musicale, giovane ma molto appassionato di jazz, diciamo più tradizionale. Si chiama Dave Bennett, album Don't Be That Way, come il classico del songbook americano. Lo ascoltiamo qui in un super classico, ovvero c'è un brano che tutti i musicisti di jazz almeno una volta nella vita hanno suonato, e forse anche i bambini nelle scuole americane come prima canzoncina cantano When the Saints Go Marching In, e questa è la versione contemporary o comunque moderna di Dave Bennett con il suo clarinetto qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. con una bella prefazione del maestro Giorgio Gaslini e anche con una testimonianza di un musicista importante del jazz italiano come Franco Cerri, vi stiamo presentando Azienda in Jazz, libro scritto più o meno una decina di anni fa da Erika Leonardi, con varie nuove edizioni per capire le regole e l'improvvisazione, emozione e tecnica, come vivere il lavoro con ritmo. Il nostro Francesco Tromba è molto interessato all'argomento e credo tu abbia altre domande, altri quesiti per Erika. Sì, allora, una è sicuramente, diciamo, l'improvvisazione è una tecnica e anche, diciamo, un elemento cardine del jazz. Quanto può essere utile dal punto di vista di un'azienda? È una domanda molto bella, perché quando io vado in azienda con una jazz band dal vivo a proporre questa metafora, devo innanzitutto fare chiarezza con chi mi sta di fronte, perché nel parlare quotidiano il termine improvvisazione è associato al far le cose in qualche modo spera in Dio. Invece in ambito artistico è espressione di grande professionalità e padronanza del contesto, quindi devo ripulire la mente nei confronti di questa differente interpretazione. In ambito lavorativo, improvvisare significa fare le cose in maniera personalizzata, cioè ci posso mettere dentro qualche cosa di mio. Io non eseguo un compito, ma vivo il mio lavoro mettendoci dentro quell'emozione che mi permette di diventare padrone di quello che faccio, di essere felice di quello che faccio. Quindi non è tanto l'attività che di per sé diventa importante, ma diventa importante come la persona vive l'attività che deve svolgere in azienda. E direi che riuscire ad accompagnare le persone a vivere il proprio quotidiano con questa chiave di lettura è qualcosa di molto importante. Ricollegandomi a quello che diceva Gegè poc'anzi, tu ti puoi scegliere i tuoi musicisti, ma chi va a lavorare in azienda non si sceglie i suoi colleghi. Per cui riuscire a trovare un modus vivendi che permette di esprimere se stessi nelle relazioni con gli altri, valorizzando le competenze, è qualcosa che ci fa andare la giornata lavorativa anche più in fretta e più contenti. Ecco, io mi è piaciuto molto quando hai precisato che il jazz non è musica improvvisata, così come molta gente nel senso dice ma che facciamo stasera? Facciamo una spaghettata? Sì, abbiamo fatto una spaghettata, abbiamo improvvisato una spaghettata. Ecco, nel jazz non funziona proprio così. Il jazz non è musica improvvisata, ma è musica dove l'improvvisazione è un elemento fondamentale, e per poter improvvisare all'interno delle strutture ritmiche, armoniche del jazz c'è bisogno di grande cultura, grande preparazione e soprattutto di grande passione, e credo che la passione sia un elemento importante anche per guidare e vivere serenamente nell'ambito lavorativo un'azienda in attivo. Sicuramente, e aggiungerei un altro ingrediente, visto che parlavi di spaghettata, Gegè: non solo grande competenza e grande preparazione, ma anche avere il coraggio di uscire un po' dalle righe, perché l'improvvisazione in ambito musicale, questo me lo insegni tu, deve avere una componente innovativa, originale. E significa uscire fuori dalle righe. Una persona lì in un'azienda lo può fare a condizione che ci sia un clima che gli permette di esprimere se stessi, quindi molto è affidato alla direzione dell'azienda. Io vedo, quando vado in azienda con la musica dal vivo, all'inizio degli sguardi un po' interrogativi e alla fine le persone però mi seguono perché riescono a vedere un modo diverso di lavorare che può contribuire sicuramente ai risultati di business, perché l'azienda deve conseguire risultati di business, ma se nel frattempo le persone riescono ad essere felici del lavoro che fanno, ci guadagniamo tutti. È un signore che ha fatto un ottimo business quest'anno, discograficamente parlando e musicalmente parlando, è il vocalist Gregory Porter. Nuovo album Liquid Spirit, ha venduto tantissime copie, ha vinto il Grammy Award e torna al soundcheck di Radio 24 con Moving. I feel just like a kite. When you say you wanna be free, free to sing, free to dance, free to let someone take a glance in a world that's free of me. You're moving in the wrong direction, moving in the wrong direction. Great. Gregory Porter con Moving qui dal Notebook Store dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove ci stiamo intrattenendo piacevolmente con Azienda in Jazz, ovvero la sua autrice Erika Leonardi ci sta raccontando le regole per l'improvvisazione all'interno di un'azienda, magari italiana o magari no. Allora, altre domande, Francesco? Sì, ne ho un'altra. Allora, i leader storici delle band spesso si ritrovano a collaborare con dei giovani di cui potrebbero tranquillamente essere i nonni, diciamo, e comunque riesce, ne viene fuori un dialogo positivo, no? Invece spesso potremmo dire che i manager magari non sono abituati ad ascoltare come fanno i band leader i propri dipendenti, quindi è una questione di saper ascoltare anche di orecchio. Sicuramente, il jazz insegna un po' l'invito che faccio alle persone che vengono a seguire questi spettacoli, insegna ad avere un buon equilibrio fra diritti e i doveri. Le persone hanno diritto di esprimersi, ma hanno anche il dovere di accettare quello che gli altri esprimono. Il jazz ci insegna quanto sia importante la capacità di ascolto, perché quello che va in diretta durante uno spettacolo non è quello codificato prima, e questo anche in azienda è importante, la capacità di ascolto. Facevi un discorso anagrafico, devo dirti non sempre l'ho riscontrato in azienda, è più un discorso caratteriale quello della capacità di ascolto, e riuscire ad ascoltare gli altri significa riuscire a mettere in sintonia le proprie capacità con quelle degli altri, quindi regole, flessibilità, spirito di gruppo e senso di responsabilità del singolo, coniugando le competenze tecniche allo spirito di innovazione, sono gli insegnamenti che il jazz dà in azienda. Il jazz insegna anche nella vita privata, appunto a coniugare i diritti e i doveri, ad avere la capacità di ascolto e ad essere sintonizzati sui tempi degli altri. Tecnica e innovazione è quella che propone Brad Meldau con le sue produzioni discografiche. Dal vivo è meraviglioso vedere questo ex ragazzo, non è più giovanissimo, ma un musicista preparatissimo che affianca sempre colleghi di primo livello. Qui infatti al sax tenore c'è anche Joshua Redman in questo brano splendido intitolato Sky Turning Grey. Brad Meldau al Soundcheck.